la tua nuca nuda. La mia sindrome di Jones alza le tende sotto le tue palpebre. La mia sindrome di Jones fuma troppo. Celle sono pigre, tu fai troppe domande a lui. E il linguaggio è così infamante, la vita così breve, l'arte così grande. È sulla tua nuca nuda. La mia sindrome di Jones alza le tende sotto le tue palpebre. La mia sindrome di Jones fuma troppo. È così infamante, la vita così breve, l'arte così grande. Ci incontreremo al buio, ci incontreremo.